The economics of genocide. So from time gold, 24 hours a day, shake the first stick. Think. We are medium-range heat-seeking guided missiles. Think about this it. Is no picnic. Think about it. We will protect the deals consummated in one laboratory. Please. Jesus. We watch and we wait. We watch and we wait. We watch and we wait. We watch and we wait. Bastard. They'll never try snatching a bone from the real dogs. Bene, siamo rientrati in diretta e ovviamente 451 frammenti sonori ha voluto dare un tributo a questo splendido lavoro del grande Mark Stewart, un lavoro all'interno poi di questa importante compilazione che abbiamo presentato alla fine della prima parte della trasmissione, cioè Myths Collection Volume 1. E chiaramente 451 frammenti sonori sulle frequenze di Radio Città del Capo riprende la sua seconda parte di trasmissione, stasera lo ricordiamo ancora, dedicata a Gilles Deleuze, e dunque Natale con Deleuze, l'abbiamo intitolata, in questo gelo, in questa dimensione assolutamente quasi apocalittica di Bologna, ma per certi versi ci piace, dunque siamo un po' malati, ma quello lo sappiamo, oramai lo da tanti anche anni gli ascoltatori. E chiaramente abbiamo chiuso la prima parte facendo un vero e proprio excursus anche storico, partendo dai progetti di Richard Pinat con gli Eldon Schizzo, per arrivare poi a un piccolo frammento proprio di Deleuze, ripreso da una collezione che poi rivedremo nel corso della seconda parte, cioè di questa parte di trasmissione, per arrivare poi a un altro grande del cut-up e del collage, dell'incastro e della distruzione, del ricollocamento, William Burroughs con Martin Olson, e abbiamo chiuso appunto con Mark Stewart e Mafia, che appunto abbiamo voluto mandare ancora in onda per una parte, anche perché il brano è molto interessante e dà appunto anche là per aprire questa seconda parte di trasmissione, che sarà dedicata fondamentalmente agli anni 90 e anche parte qualcosina del 2000, l'inizio del 2000, che poi vedremo nel prossimo anno 2010, che sarà il decennale anche della nostra trasmissione. Affronteremo sicuramente questo decennale degli anni zero con delle puntate particolari che già adesso vi annunciamo, degli speciali su questo decennale. E per riaprire la seconda parte della trasmissione dedicata a Gilles Deleuze, affrontiamo subito un tema degli anni 90, uno dei temi principali appunto è il glitch, ma anche importante ricordare un aspetto importante connesso anche all'errore e dunque anche a tutte le forme quasi incatalogabili, incastrabili, non sezionabili facilmente, non strutturabili soprattutto da parte di tutte le istituzioni totali che attraversano la nostra società, in particolar modo quella capitalistica, dallo Stato alla Chiesa e anche alle forme di rappresentazione o di studio di pensieri e di filosofi, di politici storici importanti, appunto creando una sorta di ortodossia, dunque ulteriormente un'ulteriore chiesa, un'ulteriore scuola che ingabbia. Uno degli aspetti importanti che ci piace ricordare del pensiero filosofico di Gilles Deleuze è il desiderio rappresentato dallo stesso Gilles Deleuze come positività, come costruzione ma anche distruzione. Gli individui dunque vengono definiti proprio come macchine desideranti e flussi di desideri. E dunque questo aspetto importante che si contrappone alla società in cui viviamo, dove appunto le istanze produttivistiche vanno contro ogni forma antiproduttiva, in questo le macchine desideranti, dunque i desideri, sono assolutamente non ingabbiabili, e dunque in questo lo stesso Deleuze appunto nel discorso connesso e che tu avevi enunciato molto chiaramente nella prima parte, appunto collegato all'antipsichiatria e dunque al discorso ad esempio della schizofrenia come patologia, così viene appunto identificata sia dalla scienza medica canonica e canonizzata sia dalla psichiatria tradizionale, appunto viene rivendicata dallo stesso Deleuze e anche ovviamente da Guattari come rivendicazione di libertà assolute, come soddisfacimento di tutte le possibili potenzialità umane. E dunque in questo senso un punto, almeno un granello, ecco, vogliamo mettere dentro questo calderone di stasera, un granello del pensiero di Deleuze. È chiaro che affrontare un'intera trasmissione per articolare, no, tutti gli aspetti del pensiero filosofico diventerebbe piuttosto impegnativa e anche non facile in termini di realizzazione, dunque metteremo dei granelli e così lanciamo. Andiamo anche noi per i zomi, sì, nel senso che poi anche la prima parte abbiamo lanciato dei granelli, se no insomma non siamo stati qua a pettinare le bambole, speriamo. Insomma. No, beh, sì, pettinare le bambole non l'ho mai fatto. No, pettinare le bambole è un'arte anche quella, l'arte di perdere tempo pettinando le bambole. Sicuramente. Se nella prima parte siamo andati a prendere in maniera appunto decisamente orizzontale il discorso di Deleuze e anche in maniera forse meno particolarizzata riguardo le musiche, anche perché un semplice fatto da verificare immediatamente, verificabile appunto ascoltando le musiche, quelle di Richard Pinat e quelle di Barrocks e Mark Stewart che abbiamo ancora in sottofondo, è il fatto che comunque la digitalizzazione che porta poi le musiche delesiane, se così le possiamo definire, una chiarezza ulteriore. Se l'errore e la ripetizione dentro le musicalità di Pinat, se una sorta di cut-up e quindi anch'essa di ripetizione, di collage, come appunto poi voleva fare lo stesso Deleuze riprendendo un certo Artaud, no? Quello che abbiamo citato nella scorsa trasmissione, anche questa sera per finirla con il giudizio di Dio. E sicuramente negli anni 90 con la digitalizzazione, quindi con uno anche dei piani, dei mille piani delesiani e di Guattari, si va in quel processo, chiamiamolo così, virgolettato, della nosfera, ovvero questa sorta di coscienza collettiva che è possibile attraverso internet, attraverso la comunicazione digitalizzata, quindi molto più veloce, una sorta appunto di andare oltre il corpo. In effetti poi uno anche dei discorsi principali di Deleuze era proprio il corpo senza organi, e proprio per liberarsi anche da quella soggezione che, ad esempio, citando un altro grande, stava colpendo il capitalismo negli anni 70, ovvero Pasolini, quando parlava di nuova imposizione del capitalismo sul corpo. Deleuze cerca di togliere anche questo, questa possibilità di dominio capitalistico sul corpo, parlando appunto di una sorta di possibilità da prendere da un altro piano, cioè di fatto poi la realtà si suddivide in vari piani. Questo piano appunto è quello di una sorta, chiamiamola così, di coscienza o di intelligenza collettiva, e poi tutti i discorsi vari su internet, e anche un discorso sulla digitalizzazione del percorso musicale, strutturale, che attraverso la destrutturazione, scusate il gioco di parole, ma per capire che la faccenda viene in sostanza scomposta nei suoi elementi strutturali, e quindi si va a vedere attraverso appunto un meccanismo che è anche abbastanza semplice nel computer, visto che ragiona in termini binari, quindi strettamente matematici, che le musiche sono fatte anche di errori, appunto di ripetizioni. E questo è un discorso che verrà soprattutto preso dalla Mil Platon, non a caso etichetta che si riferisce direttamente al grande filosofo francese Gilles Deleuze, che lavorerà proprio sull'errore e sullo sviluppo di questo errore in termini ripetitivi, in termini appunto di possibilità aleatoria, quindi di gioco, e quindi di sviluppo non gerarchico bensì orizzontale, e quindi uno sviluppo che poi ha veramente mille piani e mille possibilità generative. Andiamo a prendere appunto Gas, questo progetto che fa parte di una collezione in memoria della Mil Plateau, in memoriam Gilles Deleuze, uscita nel 1996 per la Mil Plateau, e appunto ci andiamo ad ascoltare questo autore, Gas, che affronta il tema dell'errore, del glitch, attraverso il suo modo, in arte Gas, Wolfgang Voigt, di Colonia, Germania. Ce l'andiamo a sentire, l'errore. Gas. Benissimo, siamo rientrati in diretta dopo aver ascoltato questo mix che abbiamo fatto fra due autori che hanno aperto, diciamo, la parte seconda dedicata agli anni 90, in particolare anche a tutto l'universo glitch, cioè quello connesso all'errore digitale, l'errore della macchina volutamente ovviamente indirizzata anche dall'uomo, errori anche non soltanto sonori ma basato anche su una sequenza di testi e dunque connesso anche al linguaggio. In questo c'è un chiaro riferimento anche a tutto il lavoro portato avanti da Gilles Deleuze, connesso anche a certi lavori di Barrocks che abbiamo indicato. E anche di Bene, giusto che lo ricordi per la trasmissione precedente. L'altra volta leggevamo un testo di Deleuze su un'opera di Bene, dove proprio parla di testo che diventa cantato, viene fuori, cioè va fuori dal testo scritto e diventa qualcosa di altro, e quindi si sviluppa un altro piano, quello che interessava Deleuze. Infatti, giusto questo appunto. Manfred, l'opera Manfred. Bene, e abbiamo mixato in questo caso Gas, che abbiamo precedentemente presentato, con un altro autore che spesso è comparso all'interno di 451 frammenti sonori, cioè Dean Roberts, autore ormai abbastanza acclamato e conosciuto nell'ambito dell'elettronica, del glitch, ma anche del post glitch e delle sperimentazioni orientate anche a certe cose connesse a una certa techno più evoluta. E Dean Roberts, cogliamo l'occasione, questo è un brano che è tratto da un'opera vera e propria, un ottimo album costruito dalla Mill Plateau indirettamente attraverso un'altra etichetta, una sublabel, la Ritornel, che era collegata a un'importante etichetta tecno tedesca, la Force Inc., che poi in realtà faceva sempre parte dello stesso circuito Mill Plateau, che sappiamo tutti poi che ha avuto varie vicissitudini e problemi di tipo economico, che poi l'ha fatta anche saltare in termini di galassia di etichetta elettronica sperimentale indipendente. E quest'opera, che è stata creata nel 2000 e poi ha avuto, diciamo, un vero e proprio distribuzione soprattutto dal 2001, soprattutto nei nostri paesi, che in cui arriva sempre molto tardi certi materiali, noi abbiamo avuto la possibilità più volte nel passato di inserirla all'interno di 451 frammenti sonori. Si tratta di Machinelle Stratagem, questo progetto che si basa appunto su una sorta di studi da parte dei vari progetti musicali che si sono proposti all'interno di questa compilazione. Ricordiamo, oltre appunto all'attuale Dean Roberts che abbiamo appena ascoltato, altri grandi che sono passati sulle frequenze di 451, da Tert Helmets a Christopher Charles a il grande King Gascon, a tanti altri, 15 progetti che hanno collaborato all'interno appunto di questa opera per creare una sorta di tributo, un ulteriore tributo da parte della Galassia Mill Plateau a Gilles Deleuze, lavorando appunto su uno studio quasi che può sembrare anche antitetico sull'errore, sulla costruzione appunto digitale dell'errore, la costruzione di sequenze, di ripetizioni, di errori e dunque di strutture che poi in realtà sono antistrutture, e creando appunto questo splendido lavoro che è ancora seminale per tutto il decennio degli anni 2000. E qui si sente già con questo brano che abbiamo ascoltato adesso da Dean Roberts, e poi ritroveremo anche un altro autore da Machinelle Stratagem nel corso di questa seconda parte, come anche una certa elettronica glitch nel 2000-2001 stava cambiando. C'è una dilatazione maggiore, c'è una astrazione maggiore rispetto a una sorta di ingabbiamento, di una ripetitività però troppo marcata e troppo alle volte manieristica che c'era comunque negli anni 90, di un glitch che adesso ovviamente a distanza di 15 anni riusciamo anche a decodificare e a rileggere e a criticare in maniera ovviamente più puntuale. Qui si sente, abbiamo avuto anche la possibilità di riascoltare sia i materiali glitch del 95-96 sia quelli del 2000-2001, che appunto musicalmente qualcosa è cambiato. E adesso infatti andiamo anche a trovare, facendo appunto un salto temporale, poi torneremo anche indietro nel tempo, quindi stiamo rompendo anche quell'asse che reggeva la prima parte della trasmissione, ovvero 70-80, 90 con Gas, quindi come si diceva prima, come diceva prima Eliseo, appunto una sorta di glitch, se vogliamo, più manierato, che diventò insomma alla fine degli anni 90, con Dean Roberts già si intravede forme più aperte di quello che è appunto l'errore digitale, e con Pierre Gérard, quindi arrivando quasi ai nostri giorni, disco di qualche mese fa, proprio dedicato a Deleuze, si va a trovare quella miniatura sonora, quella texture, quel suono udibile, non udibile, che rappresenta un po' un ponte anche con certe sonorità, o forse per meglio dire attitudini degli anni 90, quella attitudine al silenzio, al suono silenzioso, quindi un rizoma veramente sotterraneo, un qualcosa che si sviluppa attraverso appunto l'alea, tra quel rumore e quel silenzio, quindi anche in questo caso potremmo citare insomma il grande John Cage, proprio per la sua idea di silenzio, che per molti versi era dialettica appunto con, seppur insomma la dialettica con Deleuze c'entra ben poco, ma potremmo appunto farla risultare una sorta di link, e quindi in questo senso dare una dialettica o un'ulteriore aggettivazione o di questa, e quindi declinarla in maniera differente. E, con Pierre Gérard appunto si va dentro quel micromondo, quella strana appunto connubio tra suono e silenzio, tra casualità quasi del rumore dentro comunque una struttura silenziosa, una sorta appunto anche questa di fuoriuscita dalle gabbie sonore per dare spazio appunto all'inudibile e appunto al silenzio. Per Gérard, dai suoi piani appunto Plateau. Benissimo, siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato anche un'altra formazione che si muove nel territorio degli anni 90, in particolare sul versante più isolazionista, non a caso l'abbiamo coniugata anche al progetto semiudibile che abbiamo ascoltato di Pierre Gérard, vuoti e momenti appunto di punte sonore. Anche questo disco ha dei momenti comunque a livello sonoro estremamente sottesi e fa parte appunto di tutta l'area isolazionista, con riferimento ovviamente alla scena glitch degli anni 90, ma anche con riferimenti piuttosto forti anche alla scena industriale per certi versi, che poi ritroveremo soprattutto con un progetto verso la fine della trasmissione di stasera. E questo progetto Sony Main, formazione che più volte abbiamo inserito all'interno di 451 frammenti sonori, formazione nata nel 1991 a Londra in Inghilterra, è ancora in realtà attiva, anche se i lavori più interessanti sicuramente li ha portati avanti negli anni 90, quello che stiamo trattando stasera appunto connessi alla trasmissione dedicata a Gilles Deleuze, che oltretutto in questo caso lo ritroviamo, perché il brano che abbiamo estratto da parte dei Main appunto l'abbiamo pescato da una compilazione, Forces and Rhythms for Gilles Deleuze, uscita nel 1995 per la Sub Rosa, dove appunto oltre ai Main ci sono Mason Mars, Oval Scanner e Davy Shea insieme a Tobias Azan. Progetto sicuramente importante, perché appunto anche questo ispirato a Gilles Deleuze e per molti versi in collegamento poi rispetto a Mille Plateaux, oltretutto precedente, la prima compilazione poi rispetto a quelle che stiamo portando. Beh, abbiamo ascoltato una addirittura degli anni 80, sì, diciamo degli anni 90, è stata la prima degli anni 90 che riprende il discorso Deleuze con questa sorta di tributo, e appunto un lavoro dei Main che oltretutto è simile anche a quello che troviamo sempre nella stessa compilation degli Oval, che è praticamente incentrato sullo studio del suono all'interno dello spazio, e appunto abbiamo sentito appunto questo suono quasi in alcuni momenti circolare che si dipana, si allontana, si avvicina. C'è un discorso molto interessante sì, sulla spazializzazione proprio in Deleuze, la deritettorializzazione, vabbè, e l'ho detto bene, insomma, ma non lo so, non ho capito, però va bene, deterritorializzazione, ecco, questa è un po' mangiata, sì, va bene, ma permettetemelo, scusatemi, ci siamo capiti, insomma, togliere dal territorio, in questo senso Deleuze fa un discorso che è decisamente odierno tra i filosofi del Novecento, sicuramente uno dei punti focali dell'oggi, di quello che stiamo vivendo, appunto quello che vi è una sorta di processo di deterritorializzazione, l'ho detto bene stavolta, e questo processo qua porta non più a pensare a una sorta appunto di territorio chiuso come quello che può essere la nazione, il paese, ma una sorta appunto di possibilità e poi di cosa che avviene anche un po' prima, l'abbiamo accennato col discorso di questa sorta di coscienza collettiva dell'anosfera, no? Un altro dei mille piani di Plateau appunto di Guattari e di Deleuze. C'è anche appunto questo piano legato a una sorta appunto di svincolamento dal territorio, e quindi di comunicazione che avviene nell'oggi appunto attraverso internet, quindi non più una appartenenza e una centralità data dal soggetto nazionale, dalla soggettività che nasce appunto da questo, ma appunto una sorta invece di deterritorializzazione che avviene attraverso le comunicazioni globali, e che quindi creano altri punti che non sono più centrali, che appunto diventano rizomi, orizzontalità. Certo, poi da qua pensare al fatto che questi punti indipendentemente liberino è un altro paio di maniche, sicuramente poi il discorso di liberazione che è centrale dentro il pensiero di Deleuze, dentro anche l'artisticità, la dimensione appunto espressiva del filosofo, sicuramente sono ancora da qua a divenire, se internet è sicuramente stato negli anni 90 potenziale strumento di comunicazione rivoluzionaria e rivoluzionante, col web 2.0 magari ci stiamo ritrovando in una sorta di demenza di possibilità date dall'accesso e quindi anche una sorta di democratizzazione però più virtuale che di fatto reale. Vissuto è reale appunto, e in questo senso appunto il dominio ancora del capitale che riproduce il proprio sistema dando appunto una sorta di parvenza di giocosità. Non è questa la giocosità chiaramente di Deleuze, e quella forse dei Transem che sempre in memoria di Gilles creavano una sorta di gioco rizomatico partendo da una sorta di dance post rock, potremmo definirla così, con dei termini anche che creano stridore tra di loro, ma appunto andando a sentire poi si capisce anche dove è arrivato il pensiero di Deleuze e quali effetti ha dato anche su non soltanto il glitch ma anche sul post rock, su una dance veramente spostata su un altro piano. Beh, veramente notevole l'omaggio di DJ Spooky a Gilles Deleuze, una sorta di oceano invisibile, in effetti poi perdendo quel logos, quella centralità del pensiero, si potrebbe sviluppare, così per tanti versi è anche stato, quel pensiero liquido, quella liquidità che ad esempio attraversa Obama, uno dei più grossi sociologi proprio dei nostri giorni. È una liquidità che appunto non ha più punti di riferimento, si sviluppa orizzontalmente proprio come un oceano, e tra l'altro Spooky aggiunge questa non possibilità di essere visto, quindi una sotterraneità anche di un oceano, quasi una forma di sottofondo di rizoma nel vero senso della parola, non più vegetale, ma comunque sempre vivo, in questo senso acquatico. Prima abbiamo ascoltato invece una sorta di jam con le stelle, appunto da Transam, e anche con Rome Intermodal, pezzo poi successivo appunto a Transam. Abbiamo mischiato le carte, come d'altronde è inevitabile fare qua 451, soprattutto poi con Natale insieme a Deleuze, perché siamo andati appunto a prendere anche quei punti di post rock che per Transam c'entrano relativamente, ma anche per molti versi, seppur coniati con assurdismi dance o immagini nuove, appunto concezioni assolutamente inedite di queste. Con Rome si va proprio dentro il post rock di Chicago, in questo caso virato in salsa decisamente rumoristica, con queste ripetizioni appunto rumori che vanno appunto a creare una texture, e quindi appunto anch'esse uno sviluppo di tipo orizzontale, e di orizzontalità, di sviluppo veramente dronico, si va a prendere, come dicevi tu prima, storica formazione dell'industrial. Eh sì, Soviet France, sempre dalla stessa compilazione da cui abbiamo tratto altre cose nel corso della nostra trasmissione di stasera, sempre in memoria di Gilles Deleuze, sempre appunto per la Mille Plateaux, un altro lavoro, un altro omaggio da parte di Soviet France al grande filosofo francese, On the Edge of a Grain of Sand, formazione che oggettivamente per noi di 451 Frammenti Sonori non avrebbe bisogno di presentazione, però in realtà qualcosina è giusta anche ricordarla. Formazione sicuramente importantissima nella scena industriale, con forte con collegamenti, anche con un'attitudine che attingeva anche a certe forme espressive, a costruzioni che in alcuni versi si avvicinavano anche a una certa contemporanea, a una certa elettronica estremamente avanzata, che però appunto attraversava soprattutto negli anni 80 e 90 l'industrial, o quello che rimaneva dell'esperienza industrial, dunque qualcosa che si dialettizzava rispetto a queste scene. Soviet France, che oltretutto sono collocati anche all'interno appunto di questi fatidici metà anni 90, perfettamente, soprattutto per la loro vena sonora molto vicina a tutte le ambientazioni isolazioniste, e qui li ritroviamo perfettamente dentro questa atmosfera, e dunque ci rituffiamo dopo l'oceano invisibile e anche per molti versi inquietanti di DJ Spooky, all'interno di un'altra atmosfera molto aperta ma anche molto scura come suono, da parte dei Soviet France. Dunque andiamoceli a sentire insieme, un altro granello del anni 90, in questo caso dalla compilazione In Memoria di Gilles Deleuze. Benissimo, siamo rientrati in questo bordone, in questo suono estremamente aperto, connesso al reverse, il classico suono reverse che a me personalmente ha sempre colpito molto, ma che attinge a sperimentazioni veramente antiche, connesse anche a una certa contemporanea. E questo è un progetto che fa parte della famiglia Mille Plateau, sempre da Machine e Stratagem, dunque uscito nel 2000, questa compilazione dedicata appunto sempre a Gilles Deleuze, un progetto che ha prodotto poche cose, ma in questo lavoro in particolare si è caratterizzato con questo suono molto avvolgente, molto caldo anche all'interno appunto di un suono complessivamente molto più freddo nella composizione degli altri progetti che si presentano. È sicuramente qualcosa che era interessante inserire anche per dare una chiusura a tutto il percorso di stasera dedicato a Gilles Deleuze. Dunque Full Swing, questo è il progetto, e con la compilazione Machine e Stratagem del 2000 da Mille Plateau chiudiamo stasera il nostro percorso. Chiudiamo Natale dandovi insomma un Natale delesiano, cioè per quello che abbiamo detto, l'insegna del gioco, quindi anche fuori da quella dialettica e quindi il tentativo attraverso il gioco di creare delle situazioni aleatorie, quindi legate al caso, a tutto quello che non è dentro steccati, dentro limiti prefissati, e quindi una sorta di sperimentazione veramente infinita. Questo poi è un po' l'insegnamento di Deleuze, forse anche la parte rivoluzionaria insieme, certo, al desiderio, queste macchine desideranti che attualmente vengono sfruttate dal capitalismo, ma che hanno potenzialmente ancora il desiderio appunto della liberazione. Questa società non libera, lega, in catena, eccetera eccetera, di fatto questi ultimi mesi l'hanno finalmente svelato dopo anni di cazzate, detta come va detta, e di entusiasmi che già intorno al 2000 facevano capire che l'economia, la netta economia, la e-commerce, quindi tutto il discorso di internet legato a nuove forme di capitalismo, quindi anche di creatività messa a lavoro, poi di fatto adesso come adesso si trovano a scontrarsi contro un bel muro che si chiama crisi, ecco. E noi finiamo così con direi che va bene alla nostra maniera, chiudiamo così con i droni cattivi, con un po' di inquietudine, lascia un po' sul sospeso tutto quanto, anche perché chiaramente questa è l'ultima puntata della nostra esistenza. Fine anno ovviamente, da qui al 31 non saremo in onda, riprenderemo, questo lo possiamo dire tendenzialmente, perché non si sa mai che arrivi giù, non lo so, un diluvio universale o che ci sia un diluvio universale, un meteorite che cade in testa, oppure che sia un diluvio universale interiore che tutti scoppiano, insomma, lasciamo perdere. Ma mi stai facendo venire in mente, che cosa, caro? Un'immagine dalla grande abbuffata che mi sono rivisto dopo molto tempo ieri, di Ferreri, che c'è appunto uno dei quattro personaggi straordinario, che muore. Tu parli di diluvio interiore, questo è proprio, ti ricordi che questo qua è uno dei quattro che muore perché si caga addosso, cioè scoppia. Ecco, potremmo finire tutti così, modello che l'attore era Michel Piccoli, dunque finiamo tutti così, ovviamente ci caghiamo così e moriamo così. Potrebbe essere una cosa per rinascere in un altro, non lo so, tipo fiore. Speriamo in un'altra. Fiore quello là. No, quello è più vicino al discorso che anzi alla parolina che volevo usare. Appunto. Che non rinasciamo in un'altra latrina. Insomma. Ecco, bravissimo. Bene, no, poi ovviamente dovremmo riniziare appunto, come dicevo prima, intorno al 10 di gennaio, dopo le vacanze, però non siamo sicuri, mantenetevi in contatto in caso tramite il blog, che cercheremo di aggiornare costantemente. Cercateci, magari all'ospedale, che ne so. All'ospedale, sì, lungo le strade, così. On the street. Buttati da qualche parte. Va bene, un saluto ovviamente da Max Macchia e da Eliseo Scarpa. Fate i bravi, buone feste. Buone feste, buon Natale, feste, buon Natale, Fondelese. Buona Pasqua, buon Natale, Fondelese. E poi buon anno. E buon anno, buon anno. Che anno? 2029. Facciamo 2029. Mi piace 2029. Non so che ti piace. Ciao cari.